Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che riprende la chiacchierata con Alberto Scanzi, autore del volume C'era due volte Gianni Rodari. Dopo l'intervista di Morena Moretti a Scanzi, invece parleremo, ahimè, di fumetti e coronavirus. Buon ascolto. Alberto Scanzi, Gianni Rodari, è dimenticato però un po', nel senso che in questo centenario Gianni Rodari è stato ricordato moltissimo, sono usciti molti libri su di lui, diciamo che negli ultimi anni ci sono studiosi che hanno lavorato sulla sua persona. Nella scuola spesso però sono arrivati negli ultimi decenni alcuni raccontini un po' estrapolati da tutti i contesti, è stato un pochino, diciamo, utilizzato così anche malamente, no? Più che un progetto un pochino più vasto, educativo, è stato un po' ridotto a poche filastrocche messo in qualche libro di lettura. Questo anniversario, diciamo, però c'è una rivalutazione. Secondo te, come la vedi questo aspetto? Certo, recuperare la figura di Rodari nella sua completezza, ma anche poi per poter utilizzare anche i suoi insegnamenti in maniera più corretta, più articolata, più completa? Spero proprio di sì. Però è sempre stato un po' difficile riprendere in mano questa figura, perché alla fine, mentre con Einaudi, sostanzialmente negli anni 60, lui spicca il volo da scrittore per un certo ambito targato, quindi del Partito Comunista e quindi dell'Unità piuttosto che di Vie Nuove, eccetera, con gli anni 60 in cui entra in sintonia con la casa editrice Einaudi, lui diventa un po' di tutti, però evidentemente deve pagare uno scotto. Non cambia se stesso e il messaggio che lui dà, ma il messaggio che lui dà è un po' decontestualizzato. Ci sono alcuni esempi importanti quando lui scrive una poesia in cui parla della Corea e quindi da generale americano, la stessa poesia pubblicata da Einaudi e diventa contro la guerra e non è più il generale americano. E poi queste poesie vengono un po' buttate qua e là, messi a Bari, nei volumi delle scuole medie piuttosto che delle scuole elementari, e quindi vengono decostruite. Contestualizzati da quello che era l'impegno ben preciso, anche se non manca il ragionamento sempre rivolto verso il mondo migliore, il bambino al centro e il paese degli alberi di Natale, quello poi importante, no? Cioè quindi il paese di Cuccagna a cui dobbiamo tutti tendere, dove si può mangiare. Guarda, gli anni sono anni duri, sono anni dopo la guerra e quindi sono anni di ripresa, gli anni in cui i bambini non andavano a scuola perché non avevano le scarpe, quindi questo era il primo impegno di Rodari. Poi negli anni 60 è per il cambiamento dalla scuola, quindi c'è un passo avanti perché le condizioni stanno evidentemente migliorando. Dove sono i bambini che non hanno l'albero di Natale con la neve d'argento, i lumini e i frutti di cioccolata? Presto, presto, adunata, si va sul pianeta degli alberi di Natale. Io so dove sta, che strano, beato pianeta. Qui è Natale ogni giorno. Ma guardatevi attorno, gli alberi della foresta, illuminati a festa, sono carichi di doni, crescono sulle siepi i panettoni, i platani del viale sono platani di Natale, perfino l'ortica non punge mica, ma tiene su ogni foglia un campanello d'argento che si dondola al vento. In piazza c'è il mercato dei balocchi, un mercato coi fiocchi, ad ogni banco lasceresti gli occhi e non si paga niente. Tutto gratis. Osservi, scegli, prendi e te ne vai. Anzi, il padrone ti fa l'inchino e dice «Grazie assai, torni ancora domani per favore, per me sarà un onore». Che belle le vetrine senza vetri. Senza vetri si intende Così ciascuno prende quello che più gli piace e non passa mica alla cassa, perché la cassa non c'è. Un bel pianeta davvero, anche se qualcuno insiste a dire che non esiste. Ebbene, se non esiste, esisterà. Che differenza fa? Alberto Scanzi, per lei Rodari è anche un precursore di alcuni temi. Nel suo libro, per esempio, si affronta quello dell'ambientalismo e cita proprio la pubblicazione di Parole per giocare, che lei lo considera un manifesto poetico ambientalista. Diciamo che Gianni Rodari è il primo che poi usa la parola coscienza ecologica. È il primo, quello dice in un racconto, quello dei gatti di Venezia, dove i gatti facevano la pipì in cantina per non inquinare la laguna, e quindi dice, hanno una coscienza ecologica. E poi lui il gatto l'ha sempre amato. C'è un aneddoto, se posso raccontarglielo, che sì. Riguarda Bologna. C'è il capostazione della stazione di Bologna che aveva un gatto che si chiamava Milano, solo che quando arrivavano i treni questo scappava dall'ufficio e si buttava verso i binari correndo dietro al treno. Allora, quando arriva il treno, il gatto esce di corsa dallo sgabuzzino del capostazione, il capostazione lo rincorre gridando «Milano, Milano!». Il treno si ferma e tutti i passeggeri scendono credendo di essere arrivati a Milano. Questa storia l'ha raccontata a Bologna quando ha ricevuto il premio Christian Andersen. Quando ha ricevuto il premio Christian Andersen, lui parla per due terzi di Newton, che dice Newton ha dato la possibilità che quello che noi immaginiamo possa veramente esistere. E poi racconta la storia di questo gatto che si chiamava Milano. Gianni Rodari, che è uomo di fantasia, ma è anche uomo che apprezza molto la scienza, un uomo che è un positivista. Certo. E anche poi lo vediamo anche nelle pagine del Pioniere, ci sono tanti racconti legati proprio alla scoperta, alla ricerca scientifica, all'avventura spaziale e così via. Teorizza questa cosa, la matematica e la fiaba stanno insieme. Per restare su Rodari anticipatore, c'è anche un altro tema a lei caro, che è quello della, chiamiamola, emancipazione femminile, ma forse meglio dire la liberazione delle donne, quindi la figura della bambina, della donna nei racconti di Rodari. Sì, questo è un altro tema importante che viene letto dopo perché non è stato rimarcato in quei tempi, come non è stato rimarcato con la sua attenzione all'ecologia, e anche questo, la questione di genere, dell'eroina femminile di Gianni Rodari è stato poco trattato. Diciamo che lo riprendiamo forse adesso, in questi anni, ma Samantha, Alice Cascà, Samantha è stata forse l'unica eroina femminile per tanti anni. Poi c'è Alice Cascherina, che è curiosissima, si infila in tutti i meccanismi, perché lei vuole capire il mondo, e quindi ragiona la Valletta Sabrina, Romoletta, Delfina. Ecco, queste sono tutte eroine che non hanno come scopo nelle favole anche quello di sposare il principe azzurro. Quando si sposavano e vissero felici e contenti. No. Loro non cercano un principe azzurro, sono contente di loro stesse, sono curiose del mondo, sono belle fuori perché sono belle dentro. Così insomma ci dice Rodari. Poche volte si ferma a raccontare dai riccioli d'oro, poche volte parla della pione estetica, ma parla di una certa eleganza esteriore, proprio perché sono forti dentro. Ecco, su Atalanta ci sono poi, perfino cambia la storia della mitologia, mettere questa eroina in grande luce. Tanto che cadi, Alberto Scanzi, in ultimo la questione appunto degli eroi, che adesso noi abbiamo chiamato eroine, però poi Gianni Rodari non aveva degli eroi nei suoi personaggi, nel senso che personaggi che poi sono stati simbolo di un racconto per molto tempo non ne ha avuti, ha sempre cambiato, gli piaceva probabilmente un tipo di narrazione diversa rispetto alla scelta di un personaggio chiave. È vero, anche perché a un certo punto Einaudi gli chiede, attraverso i suoi collaboratori, e insiste affinché crei un eroe e un antieroe, anche per farne a puntate dei racconti. Ah, quindi fu una richiesta anche precisa dell'editore? Anche una richiesta precisa dell'editore. Ma Gianni Rodari risponde proprio dicendo no, io non creo eroi, perché i miei eroi sono i personaggi della vita reale, che devono far quadrare i conti di tutti i giorni. E l'affitto dove lo piglio? Lo dice nel secondo libro delle Filastrocche, parlando di un genitore che faceva i conti dei soldi che portava a casa e poi diceva questo mi serve per questo, e l'affitto dove lo piglio? Quindi dice i miei personaggi sono quelli della vita reale. E quindi si è rifiutato di fare questa operazione, scrivendo una lettera molto garbata e molto ironica, come sempre lui sapeva fare. Aveva una confidenza con Einaudi, che lo chiamava Hidalgo, una grande confidenza, anche quando aveva bisogno di alcuni soldi, perché aveva comprato una casa a Manzana, lui dice 4 ruderi a Manzana, scrive questa lettera ad Einaudi e ai suoi collaboratori dicendo guarda, vi ho lasciato per qualche tempo e subito vi dimenticate di pagare i debiti, e dice vi dovete 1.700.000 e qualche cosa lire che mi servono per questa casa, e quindi glielo chiede in questo modo gentile e simpatico. Inevitabile, anche se ne vorremmo fare volentieri a meno, parlare dei fumetti e il Covid-19, perché è un tema che evidentemente in quest'anno di pandemia è stato molto dibattuto all'interno del mondo delle strips. E allora cominciamo subito con un primo intervento, quello di Diego Fusaro, Interventi colti dalla rete, che ci racconta come i fumetti anticipino molto spesso la realtà, e ce lo racconta con un pizzico di complottismo inevitabile nel mondo della fantasia dei fumetti, come testimonia anche il violento Utopia di Netflix, dove un fumetto esoterico preconizza tutte le pandemie del mondo. A seguire invece vediamo come il mondo dei fumetti, con le grandi firme, tante firme, tra le quali anche Zero Calcare e Manara, si sono stretti per portare aiuto, e Fabrizia Ferrazzoli intervista il curatore di questo libro Work in Progress, il libro incartato. Sentiremo uno degli artefici di queste vignette. E infine, sempre della serie Non c'è nulla di nuovo sotto al sole, Asterix contro coronavirus. Buon ascolto. Nel 2011 la Unione Europea ha commissionato la creazione di un fumetto. fumetto. Si tratta di un fumetto dal curioso titolo Infected. Fu pubblicato nel sito ufficiale dell'Unione Europea il 31 gennaio del 2012, quindi 8 anni fa. Il fumetto descrive una storia che per molti versi è analoga a quella che stiamo vivendo oggi nell'epoca della pandemia del Covid-19 e della pandemia economica e sociale che si è portata appresso. Si trova questo fumetto ancora oggi sul sito dell'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, dove è visibile e scaricabile in lingua inglese in formato PDF. Basta andare su op.europa.eu, Publication Detail, poi lo si trova facilmente. Quindi è tutto ufficialmente reperibile sul sito ufficiale dell'Unione Europea, lo si trova. Infected è il titolo. La storia narra di un personaggio proveniente dal futuro. Egli appare in un laboratorio P4 cinese dove è in corso una visita di alcuni scienziati. Il misterioso personaggio proveniente dal futuro parla di una tremenda pandemia che si verificherà in futuro. Dice agli scienziati cosa debbono fare e addirittura salva uno di loro che viene per accidens contagiato da un graffio di scimmia, diventando in tal guisa il paziente zero da cui prende il via la pandemia. Nella narrazione di Infected 2012 troviamo già tutto, dal passaggio del virus dall'animale all'uomo, al mercato indicato quale fonte probabile di diffusione del virus, agli aerei additati come mezzo di diffusione internazionale, al distanziamento sociale con l'autoisolamento del paziente zero della storia, fino al progetto di One Health globale a cui mira l'Unione Europea. Ovviamente quella narrata nel fumetto Infected è una storia, e la vicinanza con la vicenda del Covid-19 è una pura coincidenza, ci mancherebbe, però forse qualche riflessione va pur fatta anche sulle coincidenze. Stai fermo un po', ti metto in una gabbia, ma poi il virus scappa. Ti metto in un oblò, ti sparo in fondo al mare. Il virus sa nuotare, è troppo intelligente, allora non si può. Stai fermo un po' e vattene in vacanza, ti chiudo in una stanza col video e il wifi. Tu non ti annoierai, lo dice l'esperienza, io un po' ci sono stato, quindi bye bye bye. E questo virus internazionale si sente un generale, anzi un monarca, un re. Con la corona lui vuole conquistare il mondo dalla Cina all'Inghilterra. Durante il lockdown i fumettisti italiani si sono mobilitati a sostegno di una raccolta fondi per l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. È impossibile parlare con i singoli autori, ma l'ospite del libro incartato di oggi è Mauro Zeo, uno degli sceneggiatori e soprattutto uno degli organizzatori di ARF, il Festival di Storie, Segni e Disegni di Roma, che ha dato vita a questo progetto antivirale in collaborazione con PressUp. Ciao Mauro, benvenuto. Ciao Fabrizia. Sono contento di esserci per parlare di questo libro che, insomma, in un certo senso a suo modo rappresenta un unicum, perché nasce in un momento decisamente complicato, un momento in cui ci trovavamo tutti dentro casa per fare il nostro rispetto a una pandemia che stava iniziando ad esplodere. Vedevamo notizie al telegiornale in continuazione con gli ospedali pieni, l'impossibilità di intervenire, e Stefano Piccoli, insomma, l'ideatore dell'ARF e fondatore con me, Paolo Campana, Fabrizio Verrocchi e Daniele Bonomo, un giorno ci scrive che gli è venuta un'idea. Da quest'idea, che è il primo seme di quello che poi diventerà questo libro, nasce la volontà di creare un volume, di dar vita a un volume, a una storia nuova che vedeva insieme il mondo del fumetto italiano, ma che avesse anche un'utilità pratica, cioè non solo intrattenere, ma che diventasse un libro che poteva essere preordinato fin dal primo momento per mandare subito, immediatamente, a partire dalla settimana successiva, i primi soldi allo Spallanzani e provare ad aiutare in quel momento che ce n'era più bisogno. Permettimi di dire che siete entrati di diritto nella storia del fumetto italiano, perché comunque, come dici tu, è stato un fatto straordinario riuscire a unire tanti segni e tanti stili in un unico progetto. Esattamente nel momento in cui Stefano Piccoli, il direttore dell'ARF, ha lanciato questa idea, poi vi siete dovuti mettere d'accordo e avete dovuto trovare una linea. C'è, diciamo, nel libro una tavola bonus track, la numero 79, fatta proprio da Fabrizio Verrò, che mette in evidenza il clima di confronto e conflitto per arrivare a costruire questo progetto. Sì, come tutti in quel periodo ci incontravamo solo virtualmente tramite call, e quindi ognuno, insomma, dalla propria casa, dal proprio studio, cercava di capire come rendersi utile. Fabrizio qui gioca questa cosa proprio evidenziando alcune delle nostre idiosincrasie: tu, Stefano, col suo caffè, io con i simboletti di Zagor, Good che prova a indicare, insomma, il personaggio di questa storia, Paolo col suo barbone e Fabrizio che già lavora al progetto del libro. L'idea di questo progetto arriva intorno al 10 marzo, così la prima pagina viene pubblicata il 25 marzo. Siamo partiti appunto dall'idea di Stefano, poi è arrivato Daniele Bonomo che ha avuto l'idea geniale per il titolo. Fabrizio ha lavorato sul claim e su tutto il lavoro sulla viralizzazione social. Paolo nel frattempo lo letterava e lavorava alla grafica del libro. Però per riuscire a dargli questo corpo, prima di tutto ho coinvolto Giovanni Masi, Francesco Artibani e Katia Centomo, e con loro abbiamo trasformato questo spunto in una storia. Avete trovato il perfetto escamotage narrativo per poter veramente condurre e accompagnare questi artisti tavola dopo tavola in quella che dicevo prima è effettivamente una storia corale. Noi abbiamo raccontato la storia di questo ragazzo, Leonardo, che un po' come tutti noi in quel momento era confinato dentro casa, ma lui a differenza nostra non lo faceva da quel giorno. Lui era 3 anni che stava lì dentro e già da 3 anni indossava una mascherina. Per quale motivo Leonardo si era rinchiuso dentro casa 3 anni fa lo scopriamo nel corso della storia, ma soprattutto che cosa succede a partire dalla seconda pagina, che il gatto con cui Leonardo vive, l'unico essere vivente con cui si relaziona, a un certo punto inizia a miagolare davanti a una porta dello sgabuzzino, si fissa a guardarla come spesso fanno i gatti, lui la apre e scopre che quella mattina che la porta del suo sgabuzzino dà sulla sua cameretta della casa dove viveva con la mamma anni prima. Da questo momento in poi Leonardo cerca di, passando di porta in porta, di ritornare a casa sua. È il suo unico obiettivo, un po' come dice nel Paese delle Meraviglie, che vuole tornare a casa, ma il Paese delle Meraviglie che si trova a visitare Leonardo è il paese in quarantena, cioè sono le case in Italia in quarantena, e lui quindi per la prima volta si trova a guardare come vivono le persone da cui da 3 anni è scappato. Una è la speranza, arriverà l'immunità di gregge sui monti e sulle spiagge, la pecora più bella sarai tu, amore mio, vedrai tutto andrà bene e l'ultimo tampone sarò io per te. La quarantena, sai, è come il Veneto, spegni i focolai piccoli ma può accenderne di grandi, come quello che arde nel mio cuore. Lui non resta a casa, il mio cuore va per le strade, scavalca muri, varca portoni, perché anche un cuore si rompe in... Arriverà l'immunità di gregge sui monti e sulle spiagge, la pecora più bella sarai tu, amore. Porto un 19 che Covid non è. Perché Asterix? Semplicemente perché nel 2017 è uscito un album intitolato Asterix e la Corsa d'Italia, realizzato dalla coppia Ferri e Conrad, che sostituisce la coppia Uderzo e Goscinny per ovvi motivi. Quest'album è interessante perché, come al solito, Asterix si imbatte in tanti personaggi improbabili, romani, con dei nomi completamente inventati, e questa volta questi nomi, che sono sempre dei giochi di parole, sono sempre delle cose umoristiche, I nomi sono attinti a, diciamo, al campo della medicina, della virologia, eccetera. Troviamo per esempio un certo Bacillus, abbiamo anche un certo Lactus Bifidus, e il nemico, il contendente principale per il successo finale in questa corsa che attraversa l'Italia da Monza fino a Napoli, si chiama coronavirus, esattamente come la minaccia attuale che sta mettendo il nostro pianeta in ginocchio. Sì, perché non è una cosa nuova, è soltanto una tipologia di virus che esiste già da anni, che ha già fatto molti danni in passato, e quindi gli artisti di Asterix, fiutando i tempi attuali e le minacce attuali, hanno pensato bene di utilizzare questo nome per personificare il nemico numero uno di Asterix. E oggi, ovviamente, chi rilegge questa storia la legge in un modo molto differente e ne capisce, diciamo, il senso dell'anticipare i tempi. Asterix e la corsa d'Italia, quindi coronavirus come nemico numero uno per Asterix, purtroppo in questo momento è il nemico numero uno di un po' tutti noi. Speriamo di uscirne al più presto e nel frattempo, visto che siamo confinati, abbiamo sempre la possibilità di leggere Asterix, per esempio. Ba-ba-boom, ba-ba-boom, are you gonna play a tune? Have a party, be a smarty, leave your cares behind the moon. Ba-ba-boom, ba-ba-boom, kinda makes you wanna dance. We're not looking for no fighting, so let's give our peace a chance. Are you, ooh la ya, we are one people. Ba-ba-boom, ba-ba-boom, brings our praise and we are two. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocentralfugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.